Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci a voi, buona giornata, grazie per essere in nostra compagnia. Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Siamo pronti per partire, andiamo a sentire i temi di oggi. Menisco e legamento crociato, attenti a quei due. Talassemia tra presente e futuro, la routine fatela amica. Bene bene, oggi parliamo del nostro ginocchio, in particolare delle lesioni del menisco e dei legamenti. Qui in studio con me è tornato a trovarci il professor Roberto D'Anchise, primario ortopedico all'Istituto Scientifico Galeazzi di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Professore, noi tante volte ci siamo occupati di ginocchio, abbiamo capito che è un'articolazione complessa, che è sottoposta a notevoli sollecitazioni, e però nonostante questo, a volte proprio magari per anche cose banali va in panne, e a farne le spese sono soprattutto il menisco e il legamento crociato, quello anteriore. Allora ci chiediamo, perché proprio loro? Perché sono i punti deboli del ginocchio? E spesso non è che se ne rompe solo uno, ma come sempre i guai non vengono mai soli. Facciamo la combinata. Allora, un elemento fondamentale da considerare è che l'articolazione del ginocchio è un'articolazione, diciamo, tra le più sbagliate, se così si può dire, del nostro corpo. Perché? Perché ci sono delle superfici convesse, tonde, che sono quelle della parte del femore verso la parte bassa, che si appoggiano su delle superfici piatte, che sono quelle della tibia. Quindi, di per sé, è un'articolazione assolutamente incongruente. Allora, madre natura cosa ha fatto? Ha messo i legamenti per mantenere insieme questa articolazione e ha messo i menischi, che si comportano, sono messi tra le due superfici dell'articolazione e si comportano un po' come delle zeppe che consentono una migliore distribuzione del carico. Quindi basta, diciamo così, relativamente poco perché venga alterato questo equilibrio molto molto molto difficile, e quindi il menisco si può rompere e il legamento si può rompere. Spesso si rompe il legamento e anche il menisco, qualche volta si rompe il menisco da solo. Il legamento crociato anteriore, noi abbiamo due legamenti crociati che sono quelli che stanno dentro l'articolazione. Che si chiamano crociati perché sono, si incrociano. Uno è il posteriore e uno è l'anteriore. Il posteriore si rompe raramente perché è molto più robusto e l'anteriore si rompe molto frequentemente, specialmente nelle attività che richiedono salti e cambi di direzione, quindi praticamente in tutti gli sport, tranne la bicicletta e il nuoto, insomma. Si rompono, si possono rompere sia il menisco sia il legamento, soprattutto quello anteriore, spesso in combinata, si possono rompere per traumi, anche banali, però possono essere anche danneggiati dagli anni. Sì, dai, diciamo, carico, dall'usura. Ecco, questo è prevalentemente a carico del menisco, nel senso che con il tempo il menisco si comporta qualche volta un po' come una stoffa del nostro vecchio divano sul quale ci siamo seduti mille volte, e un bel giorno si rompe. Ma come è possibile? Mi sono seduto sempre nella stessa maniera e alla fine si rompe. Questo perché si è usurato e specialmente la parte posteriore, che è quella più sollecitata, si può rompere senza alcun motivo. E questo molte volte lascia perplesso il paziente, perché l'idea del menisco rotto è sempre collegata a un trauma nell'accezione comune. Quindi agli invece sportivi, dico, non è possibile, ecco, come ho fatto a rompermi il menisco? Invece è molto frequente negli over 35. Ma noi infatti parleremo di lesioni da trauma, parleremo di lesioni da usura, in questo caso per il menisco, e in particolare parleremo anche del legamento crociato anteriore. Ma se a darvi problema è il legamento posteriore, il professor D'Anchise, allora ce ne faremo una ragione. Vero? Se volete parlarne con noi, allora, se volete raccontarci come stanno le vostre ginocchia, se sono un po' malandate, chiamateci, vi daremo consigli per farle tornare, professor D'Anchise, in forma? Sì, certamente. Mi allargo? Sì. 824 0024, questo è il nostro numero verde, sempre a vostra disposizione, i messaggi, come sempre, al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso voltiamo decisamente pagina, parliamo di una delle malattie ereditarie più diffuse nel bacino mediterraneo, la talassemia, conosciuta anche come anemia mediterranea. Ne parliamo perché domani, venerdì 8 maggio, si celebrerà la giornata mondiale. In linea con noi abbiamo la professoressa Maria Domenica Cappellini. Buongiorno. Buongiorno. Ordinario di medicina interna dell'Università di Milano e direttore di medicina interna del Centro Anemie Congenite presso la Fondazione Policlinico. Perché, professoressa Cappellini, la ricerca va sempre sostenuta, la giornata di domani è un invito a continuare a sostenerla, ma io credo che sia utile comunicare anche i successi che grazie alla ricerca si sono raggiunti, hanno aiutato i pazienti, i talassemici, non solo ad aggiungere qualità alla loro vita, ma anche anni di vita, e questa è sicuramente una conquista importante. Beh, certamente la storia naturale dei pazienti affetti da talassemia negli ultimi 10 anni è significativamente cambiata grazie al miglioramento della qualità della terapia convenzionale, sì, ovvero la terapia trasfusionale e in particolare la terapia ferrochelante associata, che è indispensabile per rimuovere il ferro che si accumula a seguito delle trasfusioni e che di fatto è la principale causa delle complicanze d'organo. Quindi, avendo migliorato questo approccio terapeutico, abbiamo ridotto significativamente le complicanze d'organo e di conseguenza la sopravvivenza dei pazienti talassemici è significativamente migliorata per i pazienti che hanno iniziato un'adeguata terapia precocemente. L'aspettativa di vita oggi è quasi sovrapponibile a quella di un soggetto normale, quindi migliora la sopravvivenza, migliora la qualità di vita e migliorano le prospettive da diversi punti di vista. Professoressa, infatti anche oggi è possibile anche ad una donna affetta da anemia mediterranea diventare mamma. Questa è una delle grandi grandissima novità e sicuramente ha dato un imprinting importantissimo alla qualità di vita. Oggi possiamo, ovviamente con i dovuti approcci, le dovute cautele, ottenere delle gravidanze in giovani donne malate di talassemia, quindi non portatrici sane, ma malate di talassemia, cosa che solo 10 anni fa era assolutamente impensabile. Quest'anno abbiamo avuto un enorme numero di nascite di bambini che a loro volta sono sani perché sono semplicemente portatori di anemia mediterranea, nati da donne malate talassemiche. Professoressa, mi scusi, vogliamo fare un salto nel futuro? Parliamo anche di terapia genica. Ma sicuramente di terapia genica per la talassemia si parla da molti anni. Sì. In ogni occasione questo argomento viene tirato fuori. Riproposto. Diciamo sì, che lentamente sono stati però fatti dei passi molto significativi negli ultimi 5 anni. Ci sono diversi gruppi che lavorano ora in questo contesto, peraltro anche un gruppo italiano coordinato dalla professoressa Ferrari e dall'equipe diretta dalla professoressa Roncarolo. Le prospettive, per quanto ancora richiedano delle fasi precliniche per dare garanzia ovviamente della integrazione del gene che si vuole transfettare, però possono, diciamo, si stanno avvicinando sempre di più ad una realtà clinica, quindi nel corso dei prossimi 5 anni si vedranno sicuramente dei passi molto significativi in questo senso. Ricordo allora l'appuntamento di domani, giornata mondiale della talassemia. Professoressa Cappellini, io la ringrazio per essere stata con noi, buon lavoro. Grazie infinite a voi. Grazie, buona giornata. Pronto soccorso. E siamo tornati invece qui in studio ad occuparci, insieme al professor D'Anchise, del nostro ginocchio, in particolare di due strutture che per traumi, abbiamo detto anche banali, oppure per usura, per effetto degli anni, per come le usiamo, possono avere dei problemi e soprattutto rompersi. Che cosa fare? Come soprattutto, cercheremo di chiedere al professor D'Anchise, come preservare il nostro menisco, come in qualche modo non sforzarlo troppo, evitando che si usuri. Ci sono degli sport che sono magari più a rischio di altri in allora, questo diciamo aspetto? Diciamo che se parliamo di preservare, di cercare di evitare un danno, questo può valere per il crociato anteriore, non per il menisco. Ahimè. Nel senso che per il crociato anteriore un buon allenamento, la possibilità di iniziare l'attività sportiva dopo aver fatto un riscaldamento, sono tutte situazioni che fanno sì che la muscolatura che è all'esterno dell'articolazione, sì, compensi l'eventuale sollecitazione, per così dire, negativa sul legamento. Quindi una buona muscolatura protegge, è certamente un'ottima protezione per il crociato. Per quanto riguarda il menisco, se si consuma, si consuma. Oltretutto devo dire la verità che per la mia esperienza non c'è relazione con le attività sportive, non c'è relazione con il peso, cioè, quando parliamo di usura. Sì. Poi è chiaro che lo sportivo avrà maggiori rischi di rottura per l'evento traumatico. Certo, ma noi tratteremo appunto questi, certo, due aspetti, anche sollecitati dalle telefonate dei nostri ascoltatori, che vedo già numerose. 824 0024, diamo subito la parola a Carmine, che ci chiama da Avellino. Carmine, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo fare una domanda. Io nel 2003 ho subito la rottura del crociato anteriore e del menisco. Allora, insomma, sono stato a visita da un ortopedico, il quale mi ha consigliato al momento di operare solo il menisco mediale e laterale. Per il crociato ce l'ho ancora in effetti rotto. Io da allora non riesco a fare ben altro, cioè a parte camminare non faccio nient'altro. Volevo sapere se più in là, a parte che già adesso quando cammino un po' di più mi dà la sensazione che si gonfia il ginocchio, volevo sapere se più in là poi posso avere ulteriori problemi se non faccio niente. Insomma, certo, se l'inattività può essere più rischiosa. Grazie a Carmine. Grazie. Ci sente in radio, professore? Allora, diciamo che la sua domanda ci consente di dire quasi tutto su quello che riguarda il crociato. Poi andiamo a casa. Nel senso che lei, adesso non ricordo se ha detto l'età, comunque la rottura del crociato anteriore comporta proprio questo rischio, cioè si riesce a camminare normalmente. Spesso il paziente è stupito, dice io ho il crociato anteriore e vivo una vita normale. È vero, può vivere una vita normale. Esiste il rischio però di cedimenti nei cambi di direzione oppure nei salti. Questo può avvenire ovviamente più facilmente nelle attività sportive, meno frequentemente nella vita di tutti i giorni, però anche scendere dall'automobile volendo è un cambio di direzione. Quindi quando l'instabilità è un'instabilità importante, ci si può trovare ad avere dei cedimenti anche banali. Oltretutto, utilizzando male l'articolazione tende a consumarsi e comincia a far male. Quindi in una situazione come la sua direi che mi pare lei sia disturbato in maniera significativa, potrebbe valere la pena di fare l'intervento chirurgico. Io recupererei, andrei un passo indietro e parlerei dei sintomi. Il dolore è un dolore violento quando il legamento si lesiona o per un trauma, a causa di un trauma lesioniamo il menisco? Ci può essere, possiamo correre il rischio di avere una lesione senza accorgercene? Allora, c'è tutta una gamma di possibilità per quanto riguarda sia l'uno che l'altro. Allora le piace questa domanda? Sì, nel senso che ci sono pazienti che hanno una banalissima distorsione, sì, hanno la sensazione che non sia accaduto nulla, sì, e non si fanno neanche vedere qualche volta, oppure si fanno vedere dicendo ma sì, mi faccio vedere tanto per essere tranquillo, e hanno il crociato rotto, perché qualche volta il crociato si può rompere senza dare quasi nessun disturbo e nessuna sensazione di dolore, e lo stesso vale per il menisco, specialmente quello degenerativo, mentre la lesione traumatica è come dire, io per rompere la stoffa sempre del nostro divano la posso rompere anche quando è nuovo. È chiaro che se tiro più di tanto lo rompo, e però devo dare una sollecitazione tale che dà una sintomatologia dolorosa evidente. Rispondiamo a questa mamma che ci scrive: aiuto, ieri mio figlio giocando a calcetto si è fatto male proprio al ginocchio, ma non si è fatto vedere, è gonfio e non riesce a distenderlo perché fa male. Posso aspettare o devo farlo vedere, e quali sono gli esami nel caso? Intanto immagino che l'abbia mandato a scuola, perché avrà detto tanto se non hai niente vai, poi ci pensiamo. Allora deve certamente farlo vedere, e gli accertamenti, perché può essere tutto e niente, nel senso che ci sono anche delle modeste distorsioni che danno una sintomatologia dolorosa, ma che in realtà non hanno creato un danno significativo all'articolazione. Quindi è giusto farlo vedere, perché molto spesso già la semplice manovra clinica ci fa vedere l'instabilità, per esempio, della lesione del crociato anteriore. Gli esami da fare sono prevalentemente un esame radiografico, che spesso viene trascurato, invece ci può dare delle informazioni importanti, perché qualche volta si possono avere anche delle fratture che può essere considerata una banale distorsione, invece può essere una frattura, e quindi è un trattamento ben diverso da quello del discorso della lesione pura legamentosa. L'accertamento ulteriore è la risonanza magnetica, che è preferibile fare quando il ginocchio si sgonfia. Teniamo presente che praticamente mai, quasi mai, esiste l'urgenza del trattamento per una lesione legamentosa o per una lesione meniscale. Questo ci mette tranquilli. Certo. Nel frattempo ghiaccio. Nel frattempo ghiaccio e riposo. E andiamo a Bologna, ci aspetta Cosimo. Buongiorno Cosimo. Buongiorno. Buongiorno, e innanzitutto vi ringraziamo per la trasmissione, che è sempre molto significativa e apre gli occhi a un po' tutti. Io volevo solo chiedere una cosa al professore. Sì. Io sono stato operato ben 4 volte alle ginocchia, 2 per ogni ginocchio, insomma. Per non fare delle preferenze, Cosimo. Sì, 2 a testa, così. Sì, penso proprio di sì. Ascolti, no, volevo sapere una cosa, sia al menisco che al legamento. La mia domanda un po' va fuori quello che è un po' il programma del legamento del menisco. Cioè, in futuro potrei soffrire di quali disturbi sulle ginocchia? Artriti, roba varia, cioè, e cosa fare per poterlo mantenere quanto più, come posso dire, in certo, allenamento? E cioè, era quella la mia domanda, visto che ormai ho certo, già 40 anni, quindi ho già 40 anni anche... Cosimo, bambino. Lei è un bambino. Bambino. E poi Cosimo dice: dato che io in un certo senso ho già dato, e adesso che cosa mi resta da fare? Allora, diciamo che oggi le domande ci consentono veramente di spaziare su tutto. La conseguenza di una lesione legamentosa non trattata può essere quella di avere una usura cartilaginea. Questo, ahimè, può capitare anche se noi facciamo l'intervento chirurgico, specialmente se lo procrastiniamo, se lo facciamo più avanti, perché il ginocchio ha lavorato male. Da quello che lei mi racconta, diciamo che l'elemento più pericoloso, se così vogliamo dire, è il fatto che le abbiano tolto nei menischi, perché i menischi hanno una loro funzione, abbiamo detto, e quindi quando li dobbiamo togliere e vengono tolti, creiamo un sovraccarico dell'articolazione e facilmente si può andare incontro a un'artrosi nel tempo. Questo non è obbligatorio, quindi non si deve spaventare, è possibile che lei vada avanti benissimo, esiste però il rischio di avere un'usura della cartilagine, che vuol dire artrosi. Andrea ci chiama invece da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. La sentiamo lontanissimo, Andrea, perché in macchina sta... mi racconti? Allora, io ho subito un intervento al crociato anteriore una quindicina d'anni fa. Sì. E sostanzialmente vorrei sapere se l'efficacia dell'intervento ha una scadenza o se vuol dire si perpetua nel tempo all'infinito. Perché io vorrei capire se a un certo punto poi è necessario reintervenire o se mantenendo... Sì, cambiato vale per sempre. Grazie Andrea. Professor D'Anchise. Risposta sintetica, se va bene è eterno. Se va bene è eterno. Ma che bello. Senta, invece rispondiamo a qualche messaggio. Appassionato praticante di snowboard e motocross, operato per ricostruzione legamento anteriore posteriore sarà. Oggi ho 34 anni, continuo a praticare i miei sport con specifici tutori in carbonio che mi danno sicurezza anche al ginocchio operato. È sufficiente per stare tranquillo anche al ginocchio sano? Allora, certamente la mia posizione è che raramente i tutori servono. Ma per lei lo dice perché è un chirurgo o perché... No, perché per poter bloccare, per poter stabilizzare realmente il ginocchio, bisognerebbe stabilizzare ginocchio e caviglia, che vuol dire non poter far nulla. Quindi il tutore, come prevenzione, e sono stati fatti anche degli studi, si è visto che in realtà non serve. Il tutore serve prevalentemente perché, avendo noi qualche cosa intorno al ginocchio, facciamo più attenzione nel muoverci, nel senso che sentiamo che esiste, e quindi prestiamo più attenzione ai nostri movimenti, perché se parliamo di crociato anteriore, lui ha parlato di posteriore, ma comunque per tornare all'anteriore, il cedimento avviene non quando obbligatoriamente quando noi facciamo il salto o il cambio di direzione, ma quando facciamo il salto o il cambio di direzione a muscolatura rilasciata. Se la muscolatura è contratta, il ginocchio non cederà mai, tant'è vero che nello sci noi lo possiamo fare perché tutti sappiamo che si scia a ginocchio leggermente flesso. Per mantenere il ginocchio flesso la muscolatura deve essere deve essere valida e funzionante, ma il rischio qual è? È che nel momento in cui si trova un sassolino, un pezzo di ghiaccio, in quel momento la muscolatura non ha più la sua funzione e il ginocchio può andare via. È lì che entra in campo poi il chirurgo. Siamo tornati insieme. Lesione del menisco e del legamento crociato, due lesioni frequenti che possono essere provocate da traumi o da usura, le stiamo trattando entrambe. A volte è necessario intervenire per riparare il danno, in altri casi si può aspettare, vedremo in quali e di queste e soprattutto quali di queste due strade hanno seguito i nostri due amici che abbiamo in linea con noi. Saluto Elena Fanchini, campionessa di sci, ha vinto la medaglia d'argento nella discesa libera femminile ai mondiali di sci alpino 2005 di Bormio. Ciao Elena, benvenuta. Ciao, grazie. Ti ho messo a fianco un cavaliere, che cavaliere, Nicola Vizzoni, benvenuto, ciao Nicola. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, grande atleta, specialista del lancio del martello, ha conquistato la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Sydney 2000 e adesso è tesserato per il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. D'altronde professor D'Anchise, con tutte queste medaglie, medaglia con medaglia, ma anche voi avete avuto problemi con il ginocchio. Abbiamo detto che per gli sportivi è frequente, voi avete anche delle caratteristiche diverse da noi, no? Comuni mortali. Ma sono seguiti meglio, questo è il grande vantaggio. Senti Elena, tu ci hai rimesso il legamento, invece tu Nicola il menisco. Com'è andata? Sfortuna o imprudenza, Elena? Ma io penso un po' di sfortuna. Io stavo facendo una gara di Coppa Europa e il giorno prima le reti non c'erano praticamente. Hanno messo le reti che non erano regolari e sì, dopo sono caduta, le reti non erano regolari e ho ruotato praticamente, sono finita nelle reti e lo sci si è incastrato comunque nelle reti e via. La rottura del crociato viene quando comunque ruoti la gamba, il 90% quando comunque ruoti la gamba il legamento si rompe e si è rotto così. Senti Elena, tu hai capito che era successo qualche cosa al tuo ginocchio subito? Beh, subito, perché ho provato a rialzarmi ma non stavo più in piedi perché sentivo proprio tutto il ginocchio tutto instabile. Ecco, come infatti ce l'ha descritto il professor D'Anchise. Vuol dire, professore, che lei sa. Ma andiamo a sentire che cosa è successo a Nicola Vizzoni. Nicola, invece per te è stato il menisco. Anche a te la stessa domanda. Sfortuna, imprudenza, leggerezza. Com'è successo? Ma niente, praticamente è successo. Vabbè, noi siamo un po' soggetti, visto la specialità nel lancio del martello. Facciamo molta palestra, io mi sono fatto male durante un'esercitazione di squat in palestra, sono andato giù in accosciata e praticamente si è schiacciato il menisco tra i due condili e praticamente si è rotto il menisco. Diciamo sfortuna perché è successo poco prima dei giochi olimpici, perciò, sì. Però ecco, diciamo, poi alla fine insomma io ho perso un pochino di tempo per cercare di recuperare, diciamo, il più possibile senza arrivare all'intervento. Poi invece l'ortopedico in quel caso lì mi ha consigliato di operare nell'arco di 2 giorni, insomma. E il tuo menisco è stato asportato, vero Nicola? È stato asportato, io ho avuto un problema al menisco esterno destro. Anche perché una scelta dovuta a professore, soprattutto, lo chiedo anche a Nicola naturalmente, con un appuntamento così importante a ridosso? O perché gli atleti... Da quello che ha raccontato Vizzoni era una tipica rottura che viene chiamata manico di secchio, nel senso che il pezzo di menisco si ribalta come può fare il manico di secchio. Questa è una lesione così importante che in rarissimi casi può essere ricucita ed è tipica del passaggio da una massima flessione ad una massima estensione bruscamente. È come se il menisco non riuscisse a seguire il movimento dell'articolazione, rimane pizzicato e si strappa. Quindi se avete avuto anche voi una lesione del menisco a manico di secchio, potete dire almeno la stessa di quella di Nicola Bizzoni. Elena, ricordando l'intervento e il post intervento, c'è magari un momento che hai detto che hai sentito particolarmente duro, faticoso, oppure magari che avresti pensato magari essere difficile, che invece hai superato con facilità? Beh, io ho avuto il legamento crociato quando avevo 18 anni, praticamente 5 anni fa, ero ancora all'inizio della mia carriera, quindi per me è stato comunque abbastanza doloroso perché ero proprio al centro delle gare, combattevo anche per i primi posti in Coppa Europa, che è il livello prima della Coppa del Mondo, praticamente li ho sofferto parecchio perché immagino. È dura comunque strappare dalle gare, poi venne una sorella che sci anche lei con me, è ancora più duro vederle andare a sciare. E tu stare a casa. Però sono stata forte, ho rimesso gli sci a ottobre, ho fatto il legamento crociato, il recupero sono circa 6 mesi da quando viene operata, ho fatto un'ottima fisioterapia, sono molto contenta e anche l'operazione è andata sempre tutto bene. Ho iniziato a sciare a ottobre, comunque dopo a febbraio ho vinto la medaglia d'argento ai mondiali. Ecco che no, merito dell'ortopedico ovviamente. Invece Nicola, invece anche per te luce e ombre? Ma luce e ombre, è chiaro, è stata una lotta contro il tempo anche per me, perché comunque a 5 mesi dall'appuntamento più importante della vita, diciamo che viene ogni 4 anni, fermarsi è stata molto dura, però comunque io grazie anche all'ortopedico, fra l'altro al dottor Chiellini che mi ha operato e poi dopo mi ha praticamente con la fisioterapia, io dopo un mese già riuscivo a ritornare in pedana. L'unica cosa che appunto ho perso, diciamo, un anno, perché questa riabilitazione molto affrettata per riavere di nuovo tutta la chiusura del ginocchio, la massima escursione del ginocchio, dopo ci ho rimesso, diciamo, un anno per riprenderlo, però comunque questa era una scelta che si è dovuto fare perché l'appuntamento appunto ormai era alle porte, non si poteva perdere tanto tempo e abbiamo fatto un po' le cose di fretta sapendo che dopo l'appuntamento saremmo ritornati in fisioterapia per cercare di riprendere tutta la mobilità e ora, diciamo, tuttora non mi dà più problemi, riesco a rifare tutte le cose come prima. Io ringrazio molto Elena Fanchini per essere stata con noi, Nicola Bizzoni, perché ci hanno raccontato un momento difficile. Anche... Posso fare un'osservazione? Sì, no, voglio dire che se avete notato, questo per dire che oggi gli interventi non sono impegnativi da un punto di vista dolore, loro tutti e due si sono lamentati prevalentemente del fatto che avevano dei problemi relativamente alla gara, ma alla domanda ricorda un periodo particolare non l'hanno evidenziato, quindi questo per dire che oggi gli interventi che vengono eseguiti in artroscopia sono interventi nella stragrande maggioranza dei casi molto molto ben tollerati dal paziente come dolore, poi c'è il recupero, c'è tutto sicuramente il recupero, riabilitazione, che loro hanno fatto da atleta e quindi in modo assolutamente infatti, diverso quello che dicevo da quello io prima del... loro recuperano certamente più in fretta, però insomma d'altra parte sono un po' dei superuomini. Elena, grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo per tutto, anche a Nicola Bizzoni. Grazie, il lupo, grazie a tutti. Grazie. E noi torniamo insieme, abbiamo Vincenzo da Catania e poi professor D'Anchise. Io vorrei capire bene quando si interviene, come si interviene, chi può aspettare, perché così diamo proprio delle indicazioni molto semplici che possano essere utili a chi ci sta ascoltando da casa. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno a lei, suoi ospiti, e grazie per l'opportunità. Allora, io pratico uno sport che è il kitesurf, si pratica a mare con una tavola simile a quella da snowboard. Una volta, durante una caduta, mi è uscito un piede dalla tavola, è rimasto solo un piede incastrato e il ginocchio, diciamo, ha avuto un movimento di torsione. Sì. Io da quel momento ho avuto un dolore che si è prolungato per circa un mese abbondante. E ogni tanto, per esempio, quando scendo dalla macchina oppure faccio altri movimenti, mi si ripropone questo dolore all'altezza del ginocchio, sì, all'altezza della rotula. Siccome il dottore ha detto che spesso una persona si rompe il crociato senza neanche accorgersene, non è consapevole di averlo rotto, Io vorrei sapere se c'è un modo per acquisire questa consapevolezza, insomma, se per Grazie, per sapere se... un po' se il allora, suo due, legamento due intero no. La prima è che è l'unico modo per farsi male un ginocchio con una tavola, nel senso che le tavole non danno mai un danno all'articolazione del ginocchio, perché il ginocchio è bloccato, i piedi sono bloccati, ci fa male alla spalla, ci fa male alla mano, ma comunque questa è un'osservazione. Quindi Vincenzo è stato bravo, è stato nel bravissimo suo. Perché è riuscito a farsi male con la tavola, specialmente per chi si interessa di ginocchio. L'altra osservazione è che di solito il crociato, come dicevo, non dà dolore ma dà instabilità, quindi il consiglio che io do è una visita da un ortopedico che valuterà clinicamente la stabilità, che è quasi nel 90% ci consente di fare la diagnosi, e una risonanza magnetica. E poi nel caso si decide, ma sul menisco può decidere anche il paziente, se il ginocchio lo tiene non veniamo da lei. Allora io dico sempre che di ginocchio non si muore, bene. Quindi la decisione su qualsiasi intervento chirurgico viene presa in relazione al disturbo che noi abbiamo e quindi a quanto questo crea una limitazione nella nostra quotidianità. Questo vale sia per il crociato che per il menisco. Un'osservazione per quanto riguarda le lesioni di tipo degenerativo è che la diagnosi viene fatta alla risonanza e clinicamente, ma esiste una buona percentuale, 30-40% di pazienti che guariscono senza intervento. Quindi prima di fare l'intervento chirurgico, a meno che non ci sia un'invalidità importantissima, è utile aspettare 2 o 3 mesi, perché c'è la possibilità che il menisco, diciamo così, si rimodelli in relazione al movimento. Un vantaggio delle liste d'attesa, ad esempio. È no? proprio vero. E a me è capitato qualche volta, pur aspettando, di inserire il malato aspettato magari 2 mesi, è venuto in sala operatoria dicendo: guarito. Ma devo proprio farmi operare. Dico: perché? Perché non ho più male. E allora ciao, ci salutiamo. Professor D'Anchise, prima diamo la parola ad Enrico che ci chiama da Livorno, che ci sta aspettando da un po', e poi lei mi deve spiegare bene, ho il menisco rotto, che faccio? Enrico, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Siamo qua. Buongiorno. Sì. Allora, io ho intanto grazie per l'opportunità, e il mio problema è questo: io ho una bimba di 13 anni che fa ginnastica artistica. Sì. E si è fatta male, la padre è uscita da una trave. Si è rotto il crociato anteriore. Oi. Ecco, allora il problema è questo, molto semplice. Noi abbiamo già, dunque, lei fa agonismo non ad altissimi livelli, però insomma sempre agonismo. Sì. Allora, il discorso è molto semplice. Noi abbiamo già fatto visitare da 2 ortopedici. E qui sono 2 opinioni contrastanti. Come uno sempre. Uno che dice sì e l'altro che dice no. Uno dice operiamo e l'altro dice no, la bambina è sempre piccola e bisogna aspettare per lo meno 15-16 anni e facciamo potenziamento muscolare. E quindi lei capisce bene che noi siamo un po'... Certo, uno è confuso. Allora, vediamo, la risposta è questa. Il problema è che noi dobbiamo fare, anche se questo può impressionare un po', dei buchi nell'osso per ricostruire il legamento. E questo buco passa attraverso la cartilagine e la crescita. Se questa è chiusa non ci sono problemi, se questa invece è aperta come in fase adolescenziale ci può essere un problema, un rischio molto ridotto ma ci può essere. Io credo che se è importante l'attività sportiva, oggi ci sono delle tecniche che consentono di evitare di disturbare la cartilagine di accrescimento. Non è l'intervento perfetto, però si può fare. Se invece non ci sono disturbi, l'attività sportiva non è così indispensabile, aspettare un anno e mezzo, a quel punto più si cresce e minori rischi ci sono. Andiamo a Udine, ci aspetta Massimo, buongiorno. Buongiorno, sono Massimo, grazie per l'opportunità. E niente, io volevo dire che sono appena stato operato da 8 giorni Come se l'è rotto? Ma presumibilmente a distanza di molti anni da un trauma, quindi per usura a distanza di anni su un trauma. Senta, e adesso mi raccomando Massimo, via di riabilitazione, perché abbiamo parlato con Nicola Bizzoni, ma lui è un atleta, aveva anche le Olimpiadi. Lei immagino non abbia Olimpiadi. Non sono una Devo dire solo questo in relazione al suo intervento. Nelle lesioni degenerative, come sembrerebbe la sua, qualche volta teniamo presente che il recupero è molto più lento in un 20% dei casi rispetto alle lesioni tradizionali, traumatiche. Quindi, attenzione, siccome mezzo mondo ha fatto l'artroscopia, lei avrà intorno a sé persone che dopo 4 giorni giocano al pallone e lei potrebbe far più fatica. Non si spaventi, perché è solo una questione di tempo. Allora, salutiamo Massimo invece. Allora, il menisco, Massimo si è già fatto operare. Nel caso, lei che cosa suggerisce? Di fronte ad una lesione meniscale, si può ricucire? Allora, in certi casi si può ricucire. Nella lesione traumatica bisogna operare perché non c'è possibilità di guarigione. Nella lesione degenerativa si può aspettare e poi si fa l'intervento, con il rischio, come ho detto, di recupero un po' più lento e qualche volta, se il ginocchio è un po' consumato, con il rischio di avere ancora un po' di dolore. Passiamo invece al legamento, perché poi ci aspettano, facciamo un saltino in laboratorio. Il legamento si rompe a tutte le età, quindi dobbiamo valutare le esigenze del paziente, il lavoro, l'età. Nei giovani io credo che sia necessario operare sempre. L'intervento si fa sostituendo il legamento in artroscopia, quindi non aprendo l'articolazione, con alcuni pezzi del nostro corpo, tendini, presi dal nostro ginocchio, oppure oggi ci sono anche percorsi in cui si può utilizzare, specialmente nelle rirotture, perché il legamento si può anche rirompere ovviamente, dei tessuti da banca. Allora, noi per andare, con il naso nel futuro, abbiamo in linea con noi il professor Giuseppe Peretti, che è ricercatore presso la Facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Milano e consulente del reparto di ortopedia al San Raffaele. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Professore, io con lei mi azzardo in un campo molto difficile. Entrerei nel campo dell'ingegneria tissutale, che è quella disciplina che combina le tecnologie della cultura dei tessuti con gli scaffold biodegradabili, proprio con l'intento di fornire una riparazione cellulare. Concentriamoci sul menisco. C'è qualcosa di nuovo? Ma qualcosa di nuovo c'è. Diciamo che gli sforzi della ricerca nel rigenerare questo tessuto, di questa struttura importante, hanno preso due direzioni. Sì. Una direzione è quella di utilizzare degli impianti, dei biomateriali che devono essere poi riabitati dalle cellule dell'organismo, sì, delle vere e proprie, come dire, delle toppe, ecco, che vengono posizionati dove abbiamo una lesione. Facciamo l'esempio, per esempio la pelle in presenza di un'ustione, noi possiamo pensare di, diciamo, tappare, detta in maniera volgare, questa lesione, questa perdita di sostanza con un materiale che non è pelle ma viene poi riabitato, per cui alla fine otterremo il tessuto originario, in questo caso l'epidermide. Lo stesso si può fare col menisco, cioè noi possiamo, dove abbiamo una lesione, impiantare un biomateriale che poi viene riabitato dalle cellule del paziente stesso. Ah, grazie, è stato molto chiaro, professore. Quindi qua, di questo ci siamo fatti un'idea. La seconda strada a cui lei faceva riferimento? Invece l'altra metodica è quella dell'ingegneria dei tessuti che lei accennava, e questa è una tecnica di cui non abbiamo ancora un'applicazione clinica, mentre nella prima già si fa qualcosa in clinica. L'ingegneria dei tessuti vuol dire prendere un biomateriale, prelevare un tessuto dal paziente, isolarne le cellule e poi queste seminarle su questo biomateriale in modo da ottenere in laboratorio un vero e proprio menisco che poi può essere rimpiantato all'interno del nostro paziente. Il vantaggio è che naturalmente, essendo le cellule del paziente stesso, non avremo problemi di rigetto, ma saranno le cellule che cominceranno a produrre una matrice che andranno poi a sostituire quella di supporto del biomateriale. Bello, professor D'Anchise? Bellissimo. Bellissimo. Professore, saltiamo dal menisco, passiamo al legamento. Sì. Che cosa c'è? Cosa ci offre? Diciamo che le strategie che abbiamo visto per il menisco un po' si ripercorrono anche per il legamento. E come diceva il professor D'Anchise, ci sono dei legamenti che possono essere prelevati dalla banca dei tessuti, oppure ci sono anche dei legamenti artificiali, sintetici, che possono essere impiantati al posto dei legamenti, anche se questi non hanno dato dei risultati ancora troppo soddisfacenti. In alcuni casi sì, in alcuni casi no. È interessante quello che si sta facendo invece nel campo anche qui dell'ingegneria dei tessuti, che vuol dire prelevare sempre delle cellule dell'individuo, seminarle su questo scaffold, supporto a forma di legamento, che andrà poi a riabitare, queste cellule lo riabiteranno. Ed è interessante il fatto che noi in laboratorio, in provetta, possiamo già cominciare a stimolare questo futuro legamento con degli stimoli biomeccanici che vanno un po' a guidare le cellule perché comincino a produrre una matrice secondo le linee di forza che poi il legamento dovrà sopportare quando sarà trapiantato nel paziente. Devo dire che restiamo senza parole, magnifiche, complicate, ma tutte degli studi nati per da semplificare vedere, la da vita per il futuro, e certo, che naturalmente certo. richiederanno del tempo. In cui dobbiamo anche inserire, ahimè, purtroppo oggi, il problema costi. Anche i costi, sicuramente quelli sono da tenere in considerazione. Professor Peretti, la ringrazio, lei è stato davvero bravo grazie a spiegare a con parole grazie, semplici ciao. Queste cose così difficili. Professor D'Anchise, lei è sempre una garanzia, così ho gratificato grazie. Tutte e due. Vi aspetto domani, come al solito, dopo il GR delle 11. Grazie per essere stati con noi, restiamo come sempre a vostra disposizione. Buona giornata.